Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Cambiare il futuro attraverso il cibo, perché molte delle scelte in tema di ambiente, inclusione, giustizia sociale e sviluppo sostenibile passano attraverso il cibo. Lo testimoniano i progetti finalisti del concorso promosso dal Barilla Center for Food and Nutrition, al quale dedichiamo il primo dei nostri approfondimenti. A proposito di cibo e giustizia sociale, parliamo anche della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si tiene oggi in tutta Italia. Siete ancora in tempo per donare nei 9.000 supermercati aderenti. Solidarietà protagonista anche dello spazio dedicato al retail con i social o charity store. Per il focus sui trend, nella seconda parte parliamo invece di camp, quando l'esagerazione, il trash consapevole, fa tendenza. E in chiusura, come sempre, Italian Factor, l'acceleratore del Made in Italy firmato Francesco Morace. La virtù di questa settimana è la variabilità. La borsa della spesa. We need to empower them, generate habits. Trust me, these leaves could save millions of lives. Agriculture is still able to give everything. Agriculture will never be out of fashion. Agriculture countries like Nepal, India, Cambodia, Thailand, etc., the agriculture is the main source of income, and if we focus on the improving our agriculture, then we can ensure a secure food environment. We believe that we can empower young people as today's risk takers, policy shifters, and change makers. Thank you very much for your time. We will have a fancy dinner waiting for us, whereas there will be 1 billion empty plates around the world, meaning there will be 1 billion people around the world going to bed hungry. And our goal is that we hope to eliminate hunger. Parlano di nutrizione, sicurezza alimentare, lotta allo spreco, educazione e consapevolezza dei consumatori. Il filo rosso che le unisce è l'entusiasmo e il cambiamento di abitudini e di prospettive attraverso un uso consapevole e partecipato della tecnologia. Sono le 10 idee finaliste del concorso YES, Young Earth Solutions, presentate al forum internazionale promosso dal Barilla Center for Food and Nutrition. 10 progetti presentati da altrettanti team di studenti universitari provenienti da tutto il mondo, da paesi in cui la scarsità di cibo è un problema quotidiano come Bangladesh, Nepal o Indonesia, oppure l'obesità raggiunge livelli preoccupanti come Stati Uniti, Canada, Italia. Un paradosso alimentare che rispecchiano e puntano a risolvere con applicazioni per smartphone e piattaforme online per imparare a mangiare in modo sostenibile, evitare lo spreco di cibo, educare al cambiamento, oppure attraverso l'utilizzo di piante e insetti per nutrire il pianeta. Value Plus, il progetto vincitore che arriva dal Bangladesh e intende portare cibo e cultura della sana alimentazione nelle baraccopoli del mondo, attraverso la creazione di una nuova rete alimentare con veri e propri Nutri-Shop negli slums delle città più povere, negozi con cibo dell'agricoltura locale gestiti da consiglieri alimentari e dotati, pensate, di cucine comunitarie. 3 i progetti italiani in concorso. Gimbi è un'app che favorisce lo scambio di competenze e prodotti tra urban farmers. Monica Pianosi. Gimbi vuol dire grow it in my backyard, ossia cresciamolo nel mio cortile, e diciamo che strizza un occhio all'idea dell'erba del vicino è sempre più verde. È vero, l'erba del vicino è sempre più verde, ma noi vogliamo che sia verde perché noi aiutiamo il vicino a farla diventare più verde. E quindi è un'applicazione per smartphones che aiuta a creare comunità sostenibili. Magari si ha il giardino ma non si hanno le competenze, oppure non si ha il tempo perché siamo tutti veramente impegnati, ma magari nel nostro vicinato c'è un pensionato o una persona che è al momento disoccupata che ha voglia e il piacere di aiutarci, quindi perché non mettiamo insieme queste competenze? Credo che al momento la sostenibilità si crei nelle città, non possiamo pensare a un mondo che torni a vivere nelle campagne, anche perché credo che dobbiamo guardare al futuro. Come rendiamo le nostre città più sostenibili? Magari con l'urban farming, magari con lo sharing di non solo cibo, ma risorse, idee, tempo. I Don't Waste, invece, è un gioco per le scuole per educare i bambini alla cultura antispreco. Maurizio Garrione. Noi ci rivolgiamo specialmente alle scuole e vogliamo costruire questa app che sarà uno strumento di interazione e che permetterà ai ragazzi, giocando, di capire molto di più quali sono gli aspetti coinvolti in questa tematica del food waste. Chiaramente puntiamo sulla collaborazione, sul network tra scuole e autorità locali, che si sta intensificando in questi ultimi tempi e che quindi speriamo che vada avanti rafforzandosi sempre di più nel tempo. ReFood, questo il terzo progetto italiano, è una startup che trasforma il cibo invenduto in street food. Giulia Del Bosco e Francesca Coffini. Noi ci siamo concentrati sullo spreco alimentare nelle piccole attività di ristorazione, i bar, le bakery, le rosticcerie, le pasticcerie, con un servizio che prevede, attraverso il ritiro, l'impacchettamento con un packaging creativo e una campagna sociale di comunicazione, di rivendere gli alimenti che sono invenduti da queste realtà di piccola ristorazione. Attraverso lo street food, quindi andando incontro a quelli che sono i nostri utenti. E ReFood conviene a tutti, conviene al barista perché al barista vengono pagati i cosiddetti avanzi a fine giornata o a metà della giornata a seconda di quello che è il prodotto che consegna al ReFood, è una garanzia di freschezza, perché un bar che ha aderito a ReFood è un bar che ti vende sempre prodotti freschi. ReFood conviene all'ambiente perché tutto il packaging e i mezzi sono interamente ecosostenibili, e conviene ai consumatori perché ReFood rivende al 50%, perché è giusto che nel momento in cui tu consumi un prodotto non fresco più al 100%, però comunque che è ancora assolutamente buono, è giusto che tu abbia uno sconto. Noi abbiamo pensato ad un partenariato pubblico-privato, a un settore privato che per esempio ci può fornire i cosiddetti assets grants, ossia dal veicolo all'elettricità. Abbiamo pensato ad un approccio che non chiederebbe sostegno finanziario al settore pubblico, ma un appoggio in termini di, non so, patrocinio piuttosto che autorizzazioni varie. Autorizzazioni, insomma, visibilità. Fai la spesa per chi è povero, questo è il claim della 17ª giornata nazionale della colletta alimentare che si tiene oggi in tutta Italia. Negli oltre 9.000 supermercati aderenti, i volontari della Fondazione Banco Alimentare Onlus ci invitano a donare alimenti a lunga conservazione che verranno poi distribuiti a quasi 9.000 strutture caritative nel paese, perché anche in Italia, è bene ricordarlo, c'è un'emergenza alimentare. Andrea Giussani, presidente di Banco Alimentare Onlus. C'è uno scenario di povertà crescente. I poveri alimentari quest'anno, ci dice la GEA, sono 4 milioni circa, quando tre anni e mezzo fa erano 1 milione in meno. Quindi uno scenario di bisogno, di reale necessità, che è più simile davvero a un'emergenza che non ha una continuità di povertà, come dire, a cui eravamo abituati in qualche modo. Voi nella vostra campagna lo mostrate molto bene, non è un tema lontano per noi, è un tema quotidiano. Potrebbe questa necessità nascondersi dietro un vicino di casa, un parente, insomma molto più vicino di quanto magari qualcuno possa pensare. Sì, noi abbiamo da un lato scoperto e riscoperto ogni giorno in questi ultimi mesi, servendo le strutture caritative, le 9.000 strutture caritative in Italia a cui portiamo quotidianamente il pane o dei pasti pronti, scopriamo questo incremento quotidiano e abbiamo voluto anche lanciare questa campagna di SMS solidale 45599 con l'idea che si tratti di una vera e propria emergenza. Non è per fare sensazionalismo, ma è perché di fatto noi troviamo il bisogno alimentare proprio nelle nostre città, nei nostri paesi, nelle nostre case, e non sembrando possibile questa cosa non assume una rilevanza sociale e una rilevanza di attenzione dei media secondo noi adeguata. Per questo abbiamo intitolato la colletta anche Emergenza Alimentare Italia. Codice a barre di Cristina Lazzati. Si fa largo il concetto di Big Society, dove la società stessa, fatta di persone, a mettersi in gioco per aiutare chi vive il disagio economico sempre più frequente negli ultimi anni. E proprio su questo concetto ha aperto ai primi di ottobre a Milano il mercato della solidarietà in via Leoncavallo 12, in uno spazio confiscato alla mafia. Laddove dunque si incrociavano i traffici di cocaina sull'asse Milano-Palermo, oggi nasce un supermercato per famiglie in difficoltà, che offre merci con uno sconto del 25% o gratis a chi non può permettersi una spesa a prezzo pieno. Non manca nulla, generi alimentari, detersivi e prodotti per l'igiene personale. Uno spazio voluto dal comune, gestito dai volontari dell'associazione Terza Settimana. Molti hanno dato una mano, da Milano Ristorazione che ha donato una cella frigorifera, a Iper la Grande I che fornisce i prodotti da rivendere a prezzi da grossista. Obiettivo è aiutare chi è in difficoltà a mantenere il più possibile una vita normale. In Italia nell'ultimo anno sono nate molte attività alternative alla mera carità, cosa buona e giusta, ma vissuta con umiliazione da molti cittadini. A Modena ha aperto il supermercato per i disoccupati, lavoro in cambio di spesa. L'Emporio Portobello, inaugurato dal Centro Servizi per il Volontariato, dispone di un magazzino, un supermarket e uno spazio d'incontro. Sono stati selezionati, con l'aiuto dei servizi sociali, famiglie e cittadini, ai quali è stata offerta una tessera e bollini per fare la spesa durante l'anno. In cambio prestano la loro opera almeno una volta alla settimana. Anche la vicina Spagna ha lanciato da poco nel quartiere di Ortelesa a Madrid la Tienda Amiga. Sconti alimentari tutto l'anno per i disoccupati. Basta mostrare il tesserino della previdenza sociale e si ottengono sconti del 10% sulla carne, 5% per la frutta, 20% sugli insaccati. La partecipazione dei commercianti è stata entusiasta. Al momento sono 60 gli aderenti. In cambio ricevono pubblicità gratuita su giornali e radio di quartiere e sono mappati dagli Indignados, ideatori dell'iniziativa, sul sito internet. Tutto all'insegna della Big Society. In fondo, se lo Stato non arriva, la solidarietà diventa indispensabile. Quando, diciamo, il gusto dell'orrido è consapevole, soprattutto già in partenza, da parte sua... No, camp, questo... non trash. Camp, ok, camp. Come la tua faccia. Va bene, è la stessa cosa. Camp. Dopo spiegherà cosa vuol dire camp, che lui è un esperto del camp. Cosa vuol dire camp? Vuoi spendere due parole per il camp? Io non ho idea. Vai per il camp, dai. Google it, Wikipedia it. Focus sui trend. Così X Factor qualche settimana fa ci ha ispirato una riflessione aggiornata sul camp, uno stile consolidatosi negli anni 60, un gusto che fa del grottesco, dell'eccentrico, dell'eccessivo i propri codici espressivi, stile che ha segnato la cultura pop, dalla moda all'arte, ma poi anche il cinema, la pubblicità, fino al costume, e che non smette di fare tendenza. Ecco perché ne parliamo oggi, come sempre, con i ricercatori di Future Concept Lab. Paolo Ferrarini, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Che cosa si intende oggi per camp? Allora, il camp è la versione più aggiornata, se vogliamo, dell'eccentricità che ormai fa parte della nostra vita quotidiana. Noi di recente, in uno dei nostri seminari sulle tendenze della comunicazione, abbiamo individuato un fenomeno che abbiamo definito eccentric me, che è proprio l'eccentricità personale che diventa un ingrediente fondamentale della vita quotidiana. Siamo partiti proprio dall'etimologia della parola eccentrico, dal greco excentron, quindi proprio fuori dal centro, un po' fuori fase diremmo oggi. Uno degli esempi più belli che abbiamo trovato di eccentricità diffusa è proprio il Palazzo Enciclopedico, la mostra che ha definito in maniera così forte la Biennale di Arte di Venezia di quest'anno, curata da Massimiliano Gioni. Gioni ha dichiarato che questa sua scelta di opere era dedicata all'impossibilità di conoscere, ma era anche accompagnata dal desiderio di accumulare, che è una delle caratteristiche del camp, soprattutto quando sfocia chiaramente nel kitsch. Oggi tutti noi accumuliamo, facciamo, diciamo, passata l'euforia del postmoderno, ognuno di noi porta avanti delle sorte di progetti di accumulo, dei progetti di collezione, che ad esempio si esprimono molto molto bene, ad esempio nelle nostre pagine di Tumblr, nelle nostre raccolte di immagini. Un Tumblr molto bello che vi segnalo è quello di Desk Safari, che è stato lanciato da un gruppo di creativi di Londra e in pratica trasforma le persone in animali. È un po' difficile da spiegare, ma vi invito ad andarlo a cercare in rete, appunto Desk Safari. Ma diciamo anche dal punto di vista estetico, il kitsch e il camp sono un po', se vogliamo, l'evoluzione dell'express yourself Bells di Madonna che diventa il Born This Way di Lady Gaga. Non importa chi sono, non importa la mia identità sessuale, non importa la mia identità di genere, non importa la mia provenienza, l'importante è riuscire ad esprimersi in maniera molto forte, ripeto, nella quotidianità. Il camp, come è stato definito anche dalla Sontag negli anni 60, era riservato, se vogliamo, agli artisti, era riservato alle elite, era riservato alle nicchie culturali o alle controculture. Oggi invece vale per chiunque. Neanche una prova del fatto che Glee, una delle serie televisive più famose al mondo, è estremamente camp in molte sue espressioni. Ecco, quindi questa trasversalità che si traduce poi in quest'uso consapevole del kitsch, del trash, appunto, che contraddistingue il camp, resta un po' il filo rosso che unisce espressioni così diverse, campi di espressione così diversi. Certo, possiamo andare dalla cultura alta, pensiamo alla mostra dedicata a David Bowie al Victoria and Albert, che si è tenuta all'inizio di quest'anno, che è stato un successo di pubblico senza precedenti. Era impossibile riuscire a prenotare, a trovare un posto per entrare a vedere quella mostra, e gli abiti di Bowie erano l'espressione, se vogliamo, anche del camp originario, quello proprio degli anni 60. Un'altra mostra che a livello di costume sta avendo un incredibile successo internazionale, quella dedicata proprio a Jean-Paul Gaultier, che è partita dal Canada, poi si sta spostando in giro per il mondo e arriverà in Europa all'inizio del 2014. Una mostra in cui l'abbigliamento diventa una forma di espressione, una forma di eleganza estremamente kitsch, se vogliamo. Quindi il grande successo di pubblico dimostra questo, diciamo, la sensibilità per questo tipo di estetica. Tornando all'esempio di Glee, una delle puntate più recenti proprio ha visto protagonista uno dei più grandi interpreti del camp contemporaneo, che è Adam Lambert, che proprio durante la puntata di Glee fa una performance, guarda caso, cantando una canzone di Lady Gaga. Il camp per molto tempo è stato punto di riferimento dell'immaginario omosessuale. È ancora così o ha assunto un significato più trasversale, così come i campi di espressione e di applicazione? Beh, se vogliamo, la Sontag è stata profetica nella sua definizione di camp, perché proprio lei diceva che il camp serve per trasformare le istanze, come dire, di lotta anche per la rivendicazione dell'identità di genere in una dimensione estremamente quotidiana, ed è quello che sta succedendo, per cui il camp ormai non ha più una connotazione di trasgressione, ma proprio dobbiamo leggerlo nella dimensione dell'espressione personale della propria identità. Non importa quale essa sia, però diciamo può avere anche degli esiti di eccentricità estremamente forte, che però viene riconosciuta come un valore molto forte in tutte le persone, quindi anche per strada, non necessariamente nelle gallerie o negli atelier dei grandi stilisti. Italian Factor. Siamo all'ultima delle virtù lungo il nostro percorso alla ricerca dell'Italian Factor. Questa è soltanto però la prima tappa. Siamo in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Francesco, ben ritrovato. Buon pomeriggio agli ascoltatori. Qual è l'ultima delle virtù che abbiamo visto in queste settimane costituiscono la premessa della ricerca dell'Italian Factor? L'ultima virtù è la variabilità, e devo dire ha una doppia, diciamo, un doppio significato, perché molto spesso la variabilità in Italia diventa trasformismo, opportunismo, no? Questa capacità di cambiare, di essere variabili, e spesso ne viene sottolineato l'elemento negativo. Invece c'è un aspetto fondamentale, soprattutto nella capacità che abbiamo di comunicare, e che è, possiamo definirla la teatralità della cultura italiana, no? Basti pensare ai nostri premi Nobel, da un lato al Pirandello delle Mille Maschere e dall'altro anche al Dario Fo di oggi. Quindi questa capacità di mettere in scena, che è variabilità, teatralità applicata ai sentimenti, anche il melodramma, no? È parte di questa cultura. Dovremmo riuscire a su questo avere una visione più strategica. Mi è rimasta molto impressa una frase che mi hai citato quando abbiamo parlato di tutto questo progetto. Proprio a proposito della variabilità, mi hai detto: il caleidoscopio italiano deve trasformarsi in un cannocchiale. Raccontiamolo ai nostri ascoltatori. Eh sì, è proprio così. Il caleidoscopio è straordinariamente attrattivo perché crea figure nuove continuamente, è imprevedibile, ha in sé il concetto di sorpresa, che peraltro è parte della nostra cultura, però purtroppo è statico alla fine, no? Paradossalmente tutto si muove ma tutto rimane uguale, è un po' quello, no, che si dice spesso, quindi tutto cambia affinché nulla cambi, che è una frase, come dire, che segna il nostro immaginario. Ebbene, trasformare questo stesso tubo in un cannocchiale che però sa guardare lontano, sa guardare le stelle, è in grado di lavorare anche sulla speranza e sul futuro, credo che sia la grande sfida che oggi il nostro paese si trova ad affrontare. In chiusura, Francesco, ti chiedo il messaggio finale di queste 8 virtù. Ricordiamo, abbiamo parlato di intelligenza, di familiarità, di vitalità, di varietà, di universalità, di versatilità, di originalità e oggi appunto di variabilità. Che cosa ci dicono queste virtù? Ci dicono che l'Italia ha tutte le carte in regola per affrontare uno scenario globale che oggi molto spesso ha bisogno di queste qualità. Il vero grande problema che noi abbiamo è che non conosciamo lo scenario complessivo, continuiamo a girare intorno ai nostri problemi, un po' attorno al nostro ombelico, a guardare l'orto di casa nostra. Dobbiamo davvero applicare queste qualità ad uno, diciamo, scenario, ad una visione globale dove diventi attivo proprio l'Italian Factor, no? Quindi moltiplicare i valori di un paese. Restate con noi, il viaggio continua sabato prossimo. Francesco Morace, grazie. Grazie a voi. E grazie anche a Fabio Cantadori in regia. Finisce qui anche questa nuova puntata di Essere e Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito o dalla nostra pagina Facebook. Lasciateci lì i vostri commenti, le vostre segnalazioni, in attesa di risentirci sabato prossimo alle 16:30. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.